Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. La Pedani si manteneva sempre la stessa con lui, salutando con garbo, indifferente, senza ostentazione, non mostrando da vedersi che egli s'appostava dietro l'uscio, dietro i pilastri, agli angoli dei muri, in portineria, e che stava fermo un pezzo a contemplarla dopo che era passata. Capiva, peraltro, che la passione del povero uomo si veniva infiammando ogni giorno di più, ma era a questo una cagione nuova, che ella non sospettava. La reputazione di lei andava crescendo. Un suo articolo su Pier Enrico Ling, il fondatore della ginnastica svedese, pubblicato nel Nuovo Agone, curioso per l'argomento e per una certa vivacità evidente e brusca di stile, specie nella descrizione degli esercizi sulla scala ondulazione e sulla spalliera, era stato riprodotto da un giornale politico di Torino e aveva fatto un certo rumore. Ora, questa celebrità nascente di lei dava un'esca nuova al suo amore, un nuovo stimolo mordente e squisito ai suoi desideri. Egli sentiva una più raffinata voluttà a immaginarsi possessore sicuro di una donna conosciuta e ammirata. Pensava che sarebbe stato doppiamente felice nell'oscurità sua d'averla quando tornava da una conferenza applaudita, di impadronirsi di quelle forme che tanti altri avrebbero carezzate con gli occhi e desiderate. Gli pareva anzi che quella felicità gli sarebbe stata tanto più dolce e profonda quanto più egli fosse rimasto piccolo e nullo, accanto a lei, nient'altro che marito, a cert'ore anche dimenticato per tutto il resto della giornata, tenuto come un servitore, uno strumento, un sollazzo, un buon bestione di casa. Ah, Dio grande! E questo gli infocava il cuore anche più forte che con la sua zucca soda d'uomo meditativo, non privo di certa finezza pretina. Egli aveva letto a fondo nell'indole di lei e capiva che quando ella avesse fatto il passo, era donna da rimanergli rigidamente fedele, non fosse altro che per il sentimento della dignità propria e per forza di ragione, per quanto l'avesse tenuto al di sotto di sé in ogni cosa. Che egli ci fosse arrivato soltanto, e poi che gli sarebbe importato delle canzonature e delle insidie, sarebbe stato sicuro del fatto suo, avrebbe ben saputo custodire il suo tesoro alla barba del mondo intero, se ne rideva delle satire del maestro Fassi. Costui s'era in quei giorni tirato addosso con gli articoli provocanti dell'Agone un nuvolo di nemici. Assalendo tutti gli avversari della ginnastica, aveva detto che i ballerini, non esercitando che gli arti inferiori, avevano delle gambe atletiche ma dei petti di pollo. Aveva accusato i maestri di scherma di far ingrossare l'anca e la spalla destra a scapito delle giuste proporzioni di tutto il corpo. Se l'era presa coi maestri di pianoforte, dicendoli causa principale della vita troppo sedentaria delle ragazze, e coi bendaggisti che osteggiavano la ginnastica perché screditava i loro strumenti di tortura. Aveva perfino stuzzicati gli speziali e i droghieri, scrivendo che calunniavano la nuova scienza perché aveva fatto scemare la vendita dell'olio di merluzzo, e da tutte le parti gli erano venute acerbe risposte a cui, da sé solo, si trovava imbarazzato a rispondere, e appunto in quella congiuntura difficile la Pedani quasi l'abbandonava. Il Fassi sfogava il suo dispetto col segretario, senza dirne il vero, perché, tacciando la maestra d'ambiziosa ed ingrata, quantunque per interesse serbasse ancora con lei le migliori relazioni, e il segretario difendendola, egli diceva peggio. Un giorno finalmente vennero a parole secche, spingendo il maestro alla maldicenza più in là del solito. Don Celzani gli rispose risentito: «La signorina Pedani è un'onesta ragazza!» «Poh!» disse il Fassi, «se avessi voluto!» «Ah! Non è vero!» esclamò Don Celzani indignato. Quegli stette per rispondere una grossa insolenza, ma il pensiero della pigione ridotta botta, gliene ritenne mezza fra i denti. Le auguro, si contentò di dirgli, di non fare l'esperimento a sue spese. Ma anche quella disputa crebbe fuoco al suo amore. Erano dunque tutti d'accordo per calunniarla e per contrastargliela. Lo zio, il maestro, sua moglie, il direttore, la Zibelli, mentivano tutti. Ebbene, e lui l'avrebbe amata a dispetto di tutti. E l'amava più che mai, difatti, trovando anzi nella severa eguaglianza della sua condotta verso di lui e perfino in ogni suo atteggiamento o movenza nuova che gli scoprisse, una riprova dell'onestà della sua vita. Un altro eccitamento gli si aggiunse. Avendo dei muratori che rifacevano l'ammattonato del pianerottolo disteso un asse sulla parte smossa per servir di ponte agli inquilini, era per lui una vera voluttà, uscendo di casa a tempo, veder passare su quell'asse la Pedani e misurar l'incurvatura del legno sotto il suo passo, la quale gli dava, in certo modo, la sensazione indiretta eppure dolcissima del suo peso. E una mattina gli toccò una gran fortuna. L'asse era stata buttata da parte, e gli uscì in tempo dall'uscio per rimetterla al posto mentre la maestra stava per passare, e lo fece con un atto violento per far vedere la sua forza. Ella non ne approfittò, superando il passo d'un salto, ma nel saltare strisciò col vestito la sua faccia china, producendogli l'effetto d'una sferzata voluttuosa, e lo ringraziò con un sorriso che lo rese felice per più giorni. Dopo quel giorno, egli credette di veder nei suoi occhi qualche cosa di nuovo, un barlume di benevolenza che gli parve il principio d'un mutamento durevole. E cominciò a scrutare quel viso con ardore insolito, come un astronomo la faccia del sole, ora accertandosi, ora dubitando, tanto il mutamento era leggero. Poteva arrischiarsi a far la sua domanda? Era troppo presto, ma che altro incoraggiamento c'era da sperare? Gli venne allora in aiuto l'ingegner Ginoni con un'idea luminosa. Incontrandolo una sera in via San Francesco, «Segretario amato», gli disse, «se lei è un uomo fino, deve fare una cosa. C'è nelle vetrine del Verri una fotografia del barone Maignol, quello che vinse a piedi da Parigi a Versailles, un velocipedista famoso. La signora Pedani è una grande ammiratrice del barone. Lei dovrebbe andare a prendere il ritratto e portarglielo». Che ne dice? Vedrà, farà colpo. Ma badi, non basta regalar le fotografie, bisogna emulare i fotografati. Faccia una corsa di resistenza da Torino a Moncalieri e che ne parli la Gazzetta del Popolo, avrà fatto di più che con 10 anni di sospiri. Da vari giorni la Zibelli aveva rifatto la pace con l'amica ed era seguito nella sua vita un mutamento nuovo. Aveva trovato un giorno, sotto il portone, un giovane maestro di ginnastica, ex sergente del genio, biondo ed elegante, che essa aveva sentito parlare una volta con molto garbo a un'adunanza della società della Cassa degli Insegnanti. Egli andava dal maestro Fassi, di cui era amico. Le aveva fatto una grande scappellata e le si era accompagnato su per la scala parlandole con una particolare espressione di rispetto e di simpatia. S'eran poi ritrovati 2 giorni dopo in casa del Fassi assente, dove la moglie, visto che si conoscevano, non aveva fatto presentazioni, e come il giovane era maestro all'ergastolo, la loro conversazione aveva preso un certo colore sentimentale, spiegando egli in che maniera fossero cessate in quella casa le risse sanguinose, le ribellioni e altre violenze per virtù della istituzione della ginnastica, e continuando il discorso le aveva chiesto spiegazioni e consigli e l'aveva ascoltata con così viva e gentile attenzione che essa n'era rimasta commossa. Da questo, con l'usata prontezza, le era rinata l'illusione d'un amore e insieme l'allegrezza, la cordialità, l'amicizia. S'era rappattumata con la Pedani, soffocando anche l'invidia che la incominciava a mordere delle sue glorie ginniche. S'era rifatta buona alla scuola, aveva buttato la cappa nera della pedagogia nella quale stava rinchiusa da un pezzo e ricominciato a leggere libri di letteratura e a scrivere perfino dei versi di nascosto, trascurando l'amministrazione della casa di cui soleva addossarsi tutte le cure. A questa nuova disposizione d'animo dovette la Pedani di essere incaricata il primo giorno del mese di portare essa medesima i denari della pigione al segretario, ciò che entrava nelle incombenze della sua amica. Essa ne rimase un po' stupita, appunto perché si trattava d'andare da Don Celzani. Ma la Zibelli, benché l'avesse sempre amara con lui, non era più gelosa. «Va», le disse anzi scherzando, dopo averle dato i danari nella busta, «lo farai felice». Il segretario, solo in casa, seduto a tavolino nello scrittoio del commendatore, stava cercando da un pezzo, con la penna in mano, le frasi più importanti della sua domanda solenne, parlata o scritta che dovesse essere, e dava del capo in difficoltà serie, poiché si trattava di armonizzare bellamente una dichiarazione d'amore appassionato con la gravità di una richiesta di matrimonio. Egli cercava, scriveva, cancellava, non mai soddisfatto, turbato anche un poco dal pensiero che, essendo il primo del trimestre, sarebbe venuta da lui la Zibelli, che era la factotum a portare la pigione. Visita che lo avrebbe messo nell'impiccio dopo che quella gli aveva levato il saluto. Non di meno, la prima frase era assicurata ormai, ed immutabile, cominciava. «Signorina, vengo a fare un passo decisivo nella vita d'un uomo». Ed egli finiva appunto di arrotondare il primo periodo quando il campanello suonò. «Ecco la Zibelli», disse tra sé con dispetto, e preparò un viso contegnoso per riceverla. In quel momento s'affacciò all'uscio la vecchia serva e disse: «Signor segretario, c'è la maestra Pedani per la pigione». Don Celzani saltò in piedi con le fiamme al viso. Non gli riuscì di dire «fate entrare», non poté fare che un gesto. La Pedani entrò e la serva richiuse l'uscio. L'apparizione della maestra gli produsse l'effetto come d'un mutamento improvviso d'ogni cosa intorno a sé. Corse qua e là in cerca d'una seggiola, balbettando «s'accomodi, s'accomodi», e andò a pigliare la più lontana. La mise accanto al tavolo, gli parve troppo vicina, la scostò, gli parve messa di sbieco, la voltò, accennò a lei di sedersi senza guardarla. Sedette lui di traverso e, presa la busta dalla sua mano, non trovò altro di meglio per avere il tempo di comporsi che prendere e contare i biglietti con grandissima attenzione, come se sospettasse d'essere truffato. Poi disse con labbra tremanti: «Va bene», e prese un foglio di carta bollata per scrivere la ricevuta. Ma nel cominciare a scrivere gli cozzarono con una tal tempesta nel capo la tentazione di cogliere quel momento per far la domanda e il timore che il momento fosse inopportuno e pericoloso, che invece di scrivere sul foglio le parole solite scrisse: «Signorina, vengo a fare un passo decisivo». Se ne accorse, arrossì, stracciò il foglio, ne prese un altro, ricominciò a scrivere sempre con quella tempesta nel capo. La vista gli si velava, la mano gli ballava, le parole gli sfuggivano, la fronte gli si bagnava di sudore. La maestra lo guardava tranquilla e seria. Essa non rideva di nulla, non aveva senso comico. Il segretario piegò il foglio e, ritenendolo in mano per poter trattenere lei, s'alzò in piedi e di rosso si fece pallido. Poi cominciò: «Signorina, Che cosa seguì allora nella sua mente? Forse una sincope improvvisa del coraggio, forse il pensiero improvviso che sarebbe stato meglio avviar prima il dialogo sopra un altro argomento, perché la dichiarazione non paresse troppo repentina ed ardita. Fatto sta che invece di dire quello che aveva preparato, mutato tuono tutto a un tratto, mandando giù la saliva per la gola secca, mormorò umilmente: «Signorina, se ha bisogno di qualche riparazione...» Questa volta alla ragazza sfuggì un sorriso, rispose di no, tutto era in ordine nel suo quartierino, lo ringraziò della cortesia e, alzandosi, tese la mano per prendere la ricevuta. Il momento era giunto, o subito o non più. Il segretario tirò indietro il foglio e, rinunziando a dir le parole preparate perché la confusione non gliele lasciava ritrovare, si slanciò con disperato coraggio contro il pericolo. «Signorina!» ripeté. «Io ho una cosa da dirle. Mi permetta, mi perdoni. So che questo non è il luogo, ma vi sono dei momenti, vi sono dei sentimenti nei quali l'uomo onesto, quando è un affetto onesto, sia pure davanti a Dio, è impossibile. Tutto si deve dire, tutto si può scusare, è un dovere lasciar dire. Io già mi sono spiegato. Lei conosce il mio sentimento. Mai, mai fu leggerezza. Fin dal primo giorno, mai. Sempre ho coltivato quel pensiero, giammai nella mia coscienza se ho ardito, Dio me testimonio, la più pura intenzione, il più sacrosanto scopo, l'affezione di tutta la vita, se anche non l'ho scritto, eccomi a dirlo, signorina, la sua mano». La maestra, che aveva sorriso alle prime parole e ascoltato con serietà le ultime, corrugò la fronte quando egli ebbe finito, soffusa d'un leggero rossore che sparve subito. «Veda, signor segretario», rispose, «io non so trovare giri di parole per dire certe cose come si dovrebbero dire. Dico franco il mio pensiero, non ho che a ringraziarla delle sue buone intenzioni, anzi, mi tengo onorata. Ma se avessi avuto un'idea, l'avrei manifestata subito dopo la sua lettera, perché avevo capito quel che c'era sottinteso. Le dico che mi tengo onorata, sinceramente. Però ecco la cosa, davvero io non ho vocazione per il matrimonio. Ho 27 anni, se avessi avuto altre inclinazioni le avrei secondate da un pezzo, cosicché, insomma, io non so trovare delle frasi, mi rincresce, la ringrazio. Ecco tutto, favorisca la ricevuta. A quelle parole l'amore trafitto urlò e la naturalezza gli venne. Ah no, signorina, no, esclamò Don Celzani agitandosi. Lei dice così perché non sa. Non sono come gli altri io. Cosa crede? Io le voglio bene sul serio. È un pezzo che peno. Non vedo altro io. Come si fa? Dice, voglio essere libera. Che mi importa a me? Non sarei mica un padrone. Ah, lei non mi capisce. Io sarei il suo servitore. Non pretenderei nulla. Non so niente. Sarei troppo felice. Matto. Lei non mi conosce. Come sono? Che mi fa perdere la testa, che le darei il mio sangue e la salute dell'anima, Dio grande, non mi dica di no, abbia misericordia d'un galantuomo! La maestra, maravigliata di tanto calore di passione in quell'uomo, lo guardò un momento, diede un'occhiata all'uscio e lo tornò a guardare con una vaga espressione di rammarico. Basta così, signor Celzani. Io le ho già detto il mio sentimento. Lei ha un buon cuore, troverà un'altra che corrisponderà al suo affetto come merita. Lei si inganna sul conto mio. Io non sono come forse si immagina. Io non sono tenera, ho il cuore d'un uomo io. Non sarei una buona moglie. Veda che son sincera, si faccia una ragione e mi dia il foglio. Non è conveniente che mi fermi un momento di più. E facendo un passo avanti, allungò la mano per pigliar la ricevuta. Per istinto il segretario le afferrò la mano e fu come una vertigine. Cadde i ginocchioni d'un colpo e, accecato, supplicando, s'avviticchiò furiosamente alle ginocchia di lei, strofinando il viso convulso contro la sua veste. Fu un baleno, però. Due mani gagliarde sciolsero le sue dita incrocicchiate e con una spinta virilmente impetuosa lo misero in piedi d'un balzo, sbalordito. «Signor Celzani», disse severamente la maestra, ma con un accento più di fastidio che di sdegno. «Queste cose con me non si fanno!» E soggiunse dopo una pausa. «Sia detto una volta e per sempre!» Ma il segretario quasi non sentì. Leopoldo Mastelloni ha letto «Amore e ginnastica» di Edmondo De Amicis. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolanti e Anna Martetti, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.